Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In questa puntata torniamo a parlare di un indicatore prezioso nel mondo dei consumi. Ogni anno ci racconta come sono cambiate le nostre abitudini di consumo e di vita attraverso il carrello della spesa. Un carrello della spesa in difficile equilibrio quest'anno tra tradizione e innovazione, esigenza di sicurezza e sostenibilità, risparmio e dimensione online. Focus sui trend è dedicato invece alle nuove dinamiche tra interni ed esterni, indoor e outdoor, per prodotti e servizi, una delle rivoluzioni dettate dall'emergenza. Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955. Sì. Non capisco, ma che è successo? Fu il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo. A farci viaggiare nel tempo quest'anno, tra limitazioni da una parte e accelerazioni dall'altra, è stata l'emergenza coronavirus. Avanti fra smart working, spesa online e iperconnessione, indietro anche di decenni per alcune voci di spesa come i consumi fuori casa e i viaggi. Questa è la fotografia scattata dal rapporto Consumi COP 2020, l'ormai tradizionale studio annuale che analizza stili di vita e di consumo degli italiani. Nel periodo che segna la più grande recessione dal secondo dopoguerra, evidenzia il rapporto, gli italiani restano i più pessimisti d'Europa. Il 38% pensa di dover far fronte nel 2021 a seri problemi economici e tra questi il 60% teme di dover intaccare i propri risparmi oppure di essere costretto a chiedere un aiuto economico. Alla spesa alimentare però gli italiani non rinunciano, solo il 31% contro il 50% di un anno fa dichiara di voler acquistare prodotti più economici, ma il carrello cambia profondamente. Albino Russo, direttore ufficio studi e direttore generale ANCC COP. Il totale dei consumi è tornato indietro di 25 anni, i consumi del 2020 sono uguali a quelli del 95, per alcune categorie è addirittura andata più indietro. La spesa in viaggi e vacanze del 2020 è come quella del 1975. Per altre cose invece il Covid ci ha proiettato in avanti, ci ha fatto fare un salto nel futuro, e questo è il caso della società smart favorita dal digitale, è il caso della denatalità che anch'essa purtroppo accelera, è il caso appunto ancora una volta dell'utilizzo finalmente non solo nella vita privata e nell'intrattenimento del digitale come una risorsa abilitante. La didattica a distanza si proietta in avanti di 15 anni, l'e-commerce va avanti di 10 anni e di circa 12 anni accelera il ritmo della diffusione dello smart working. Per quanto riguarda i consumi, partiamo dalla spesa alimentare. Voi evidenziate delle parole chiave che sono appunto i trend di questo momento. Fatto in casa, digitale, sicuro e sostenibile. È il nuovo cibo. Naturalmente il cibo resta metafora del paese, uno degli elementi più intimi della cultura italiana e anche quelli in cui prima si notano i cambi d'umore e i cambiamenti degli stili di vita degli italiani. Quindi il prossimo cibo degli italiani sarà certamente italiano, sarà un cibo della memoria e della tradizione e della sostenibilità sociale. Compriamo italiano per aiutare la nostra società a recuperare prima. Quindi un cibo italiano, un cibo sostenibile, anche un cibo sostenibile dal punto di vista ambientale. Gli italiani sono tra gli europei quelli che dichiarano una maggiore disponibilità a comprare oggi e anche in futuro prodotti eco-friendly, e poi un cibo sicuro sia per il benessere della persona sia per la sicurezza nei confronti dei contagi di oggi e dei contagi di domani. E poi un cibo homemade che racchiude un po' tutte queste caratteristiche. È cibo della tradizione. Fare il cibo in casa significa mangiare meglio spendendo meno. L'ultima grande novità, non poteva mancare neanche in questo caso, è il cibo digitale, un cibo che sperimentiamo online prima di cucinarlo in casa. I food blogger e i trendsetter digitali del cibo hanno avuto un'esplosione in questo periodo, ma anche un cibo digitale perché ci consente di svolgere la spesa quotidiana senza uscire di casa, sebbene questo sia ancora un servizio rivolto ad una minoranza del paese. Possiamo citare qualche boom di categoria o di prodotto nel carrello della spesa particolarmente significativa? Beh, sicuramente nel carrello della spesa di questa estate, che può considerarsi una sorta di preview di quello che avverrà in futuro, vediamo mischiarsi alcuni di questi stili alimentari. Beh, sicuramente la predominanza del cibo confezionato sul cibo sfuso, un cibo confezionato che consenta una spesa più rapida, quindi di trascorrere meno tempo nel punto vendita, ma anche un cibo confezionato che ancora una volta è racchiuso in una bolla di cellofan e in un qualche modo appare più protetto rispetto al cibo da insacchettare. Ma forse l'elemento più rilevante è questo ritorno al passato, anche in questo caso, di un cibo che diventa materia prima più che prodotto già pronto da consumare, e quindi la forte esplosione dell'ingredientistica che cresce a doppia cifra e la diminuzione al contrario dei cibi già pronti, uno per tutti, anche in questo caso la riduzione superiore al 10% delle insalate in busta. Abbiamo ricominciato a comprare l'insalata che laviamo bene a casa al posto di quella insacchettata che costa anche di più. Un'ultima domanda sulla spesa digitale che cresce, però ha un deterrente che è costituito dal caro prezzo. La spesa digitale ha avuto un exploit evidente durante il lockdown, continua a crescere a tripla cifra con un incremento superiore al 100%, ha raddoppiato la quota sul totale dei consumi alimentari, sebbene rimanga ancora marginale. Ha offerto un indubbio servizio al paese, soprattutto nelle aree più colpite dalla pandemia, naturalmente ha un costo maggiore, un differenziale che sebbene in discesa tra gli acquisti online e quelli fisici, che si mantiene comunque alto, il 25% in più, sia perché chi compra online compra anche prodotti di tipologia e di qualità superiore, quindi con un costo più alto, sia perché il costo del servizio è tale da richiedere in qualche modo un costo unitario a parità di prodotto più elevato. Vedremo in futuro se il sistema distributivo riuscirà a proporre un servizio meno costoso. Certo, c'è da dire che gli italiani più che agli operatori puramente virtuali guardano ad un'ibridazione tra punto vendita fisico e online, si fidano delle insegne del canale fisico, sperimentano di più e sempre di più il click and collect, cioè la possibilità di ritirare a punto vendita una spesa già confezionata. Il ritmo del click and collect è doppio rispetto a quello della classica consegna a domicilio. Continuiamo a parlarne tra pochissimo, ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parleremo anche di coronavirus e tendenza essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, stiamo parlando del rapporto consumi COP 2020 che ci fotografa rinchiusi nella bolla dell'incertezza, a rischio isolamento per la dimensione digitale, restii ad uscire dalla nostra comfort zone che è la casa. Mobilità e attività diventano a corto raggio e il cibo acquista una nuova centralità. L'attenzione ai prodotti eco-friendly resta alta, più della media europea, di qui la richiesta al governo di una fiscalità che favorisca i consumi green. Marco Pedroni, presidente di COP Italia. Il contesto che abbiamo davanti, come tanti altri settori, è un contesto che presenta molte incertezze, perché ha una fase in cui la distribuzione e il largo consumo hanno risposto a un bisogno degli italiani quando il lockdown era presente, è seguita un'altra fase invece in cui si sono ripresi un po' di comportamenti tra virgolette più aperti, e l'andamento delle vendite in questi mesi quindi è stato altalenante. Oggi tende a stabilizzarsi, ma soprattutto noi pensiamo che nei prossimi mesi possa un po' crescere anche la fiducia nella ripresa del paese, anche grazie alle risorse che dall'Unione Europea vengono e alle iniziative che il governo metterà in campo, e quindi che ci possa essere accanto a un sostegno al reddito molto importante soprattutto per le fasce più deboli, anche un po' di ripresa di quella fiducia che è fondamentale. Senza domanda interna che si alimenta di fiducia, il paese non riparte. Guardando le famiglie in questo momento, la spesa alimentare come si colloca? La spesa alimentare è ormai storicamente una quota, diciamo così, piccola, intorno al 15% delle spese delle famiglie. Ovviamente in questa fase ha avuto una grande importanza perché è stato uno dei consumi ovviamente più stabili e che ha garantito alle persone di poter stare a casa, di poter gestire diversamente anche la propria alimentazione. Anche in futuro molti di questi segni rimarranno, questa tendenza all'homemade, al fare in casa, rimarrà sicuramente più forte rispetto alla fase pre-virus, ma diciamo c'è anche un cambiamento interno al modello dei consumi e anche ai comportamenti alimentari. Ci si è spostati di più verso prodotti, meno prodotti pronti e sofisticati, più prodotti anche fatti in casa, una ricerca comunque di qualità significativa e importante. Poi c'è una parte delle persone che sta cercando di spendere meno perché se la crisi sente una prospettiva difficile. Che cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Che cosa chiedete alle istituzioni? Ci aspettiamo che si faccia quello che si è detto, cioè un grande piano di rilancio del paese, investimenti, infrastrutture, sostegno alla domanda, e ci aspettiamo in particolare per il nostro settore che questa fase sia una fase di sostegno alle persone ma anche alle scelte green e sostenibili, perché uno dei rischi di questa fase post-virus è quella che le persone usino di più i mezzi individuali, usino di più l'usa e getta, mentre c'è assolutamente bisogno di una politica anche fiscale che incentivi i consumi più green e le scelte ecologiche delle famiglie. Da questo punto di vista, come COP siamo in prima fila. Focus sui trend. Parola d'ordine outdoor per spazi, prodotti e servizi. Questa è una delle rivoluzioni dettate dall'emergenza coronavirus. Oggetti nati per l'interno si trasformano per essere utilizzati anche all'esterno, gli spazi condivisi si modificano, soprattutto quelli urbani, così come il retail e la ristorazione. Lo dimostrano i casi che ha rintracciato per noi Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, ben trovata. Ciao, un saluto e ben trovata anche a te e a tutti quanti. Iniziamo da un oggetto, è un complemento d'arredo che causa smart work è soggetto a molte revisioni in questo momento. Di cosa parliamo? Parliamo di una scrivania, di un mobile di nome e di fatto. È una scrivania progettata da un architetto messicano, Enrique Tovar, che ha voluto chiamarla nomada per le abitudini nomadi del nuovo consumatore, del lavoratore che si sposta, non rimane solo nell'ufficio o soltanto in casa, ma anche pensando alla flessibilità del design e alla capacità di questo oggetto, di questo mobile, di essere trasportato senza sforzo da uno spazio all'altro. È pieghevole e leggera in modo da essere trasportata in luoghi diversi. È composta da una struttura in legno di rovere riciclato, ha una superficie di laminato bianco che ospita anche un contenitore e può essere scritto con pennarelli a base d'acqua, quindi poi potendo anche ripulire con un semplice gesto, ha una maniglia tonda nella parte anteriore per sollevarla e trasportarla. Ma c'è un altro aspetto interessante: nomada e anche modulare, perché può essere all'occasione anche fissata con altri mobili, con altre scrivanie. Nuovi equilibri tra interno ed esterno, soprattutto per la loro percezione. Il prossimo caso che arriva dal Giappone lo dimostra. Arriviamo in Giappone, a Tokyo, esattamente a Shibuya, un quartiere importante della città, un quartiere molto animato. Sono stati progettati per due parchi di questo quartiere delle toilette quindi da esterni, molto belle a vedersi. Sono state progettate dallo studio di Shigeru Banno, un architetto che nel 2014 ha vinto anche il premio Pritzker, considerato l'Oscar dell'architettura. Questi nuclei, questi chiamiamoli contenitori, anche se può essere riduttivo, perché sono veramente molto belli, con delle sfumature di verde, di azzurro, sono trasparenti dall'esterno quando sono vuoti, mentre nel momento in cui una persona entra, fissando bene la serratura della porta che si trova sotto la maniglia, fa sì che il vetro diventi opaco e quindi nulla si può vedere dall'esterno. Poi di notte la struttura si illumina e quindi diventa come una bellissima lanterna all'interno del parco. La trasparenza, l'ospitalità e l'inclusività di questi spazi esterni, ma con tutta la cura di un ambiente interno, personale e intimo, ecco, in questo senso quello che si vuole offrire. Non solo la scrivania, come dicevamo prima, diventa mobile, c'è chi ha pensato a dei veri e propri moduli di lavoro per gli spazi urbani, con un nuovo dialogo tra la città e l'interno. Ci hanno pensato in Olanda uno studio di design, Dutch Inventors, che ha creato una collezione di 4 uffici compatti. L'hanno chiamati Tiny Offices, piccoli minuscoli uffici. Ecco, sono proprio uffici compatti in alluminio ondulato e legno e misurano poco più di 6 metri quadrati, con porte di legno e una grande apertura luminosa nella facciata anteriore, come una grande finestra che dà sul mondo. Lo spazio è veramente piccino, ma è molto curato nei dettagli. Per il momento sono soltanto 4 questi contenitori personali individuali. C'è l'ufficio più colorato, l'altro più sobrio ed elegante, e quindi è possibile scegliere quello che per poche ore o per alcuni giorni può essere uno spazio di lavoro. Tendenza outdoor anche per la ristorazione, e nel settore fast food si pensa a mantenere all'esterno più servizi possibili, quindi con nuovi flussi, nuovi equilibri negli spazi. L'ultimo caso ci arriva da una catena importante di questo settore. È il nuovo progetto di Burger King, un progetto lanciato in questi giorni che si chiama proprio Ristorante del Futuro. Non guarda soltanto agli spazi, l'interno e l'esterno, per il consumo, ma anche per il transito di automobilisti, ma anche di consumatori in bicicletta. Quindi la sosta, il passaggio, il transito, gli ordini diretti o da mobile, il consumo sul posto o meno, e quindi anche tutte le fasi che sono di ordine di consegne. Quello che è interessante in questo pensiero sull'interazione, sugli spazi e sui consumi, è che nel complesso l'obiettivo è fornire più modalità di ordinazione e consegna, e lascia il progetto fisicamente un'impronta inferiore del 60% rispetto ai precedenti ristoranti. Gli ospiti in questa nuova concezione potranno parcheggiare auto sotto tettoie che a loro volta sono rivestite con pannelli solari, dove ordinare tramite i loro codici in modalità completamente touch. Per gli ordini effettuati sull'app ci saranno aree di parcheggio dedicate dove l'ospite potrà far sapere al ristorante che è arrivato, oppure per coloro che arrivano a piedi piedi, in bicicletta, gli armadietti del pick up potranno mantenere custodito il loro cibo e poi naturalmente tutti gli spazi per chi vuole invece fermarsi e consumare in loco. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Un saluto, ciao. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, da dove partiamo questa sera? Qual è il tuo spunto? Buonasera Maria Luisa. Stasera partiamo da un libro io credo molto bello, che è Almarina di Valeria Parrella. Ho fatto questa scelta perché è la storia di una insegnante di matematica che affronta l'impresa di insegnare nel carcere minorile di Nisida. Allora, diciamo che il periodo si presta, perché si sta parlando giustamente di scuola, di modelli educativi, di come affrontare l'autunno, e il libro ci dà delle indicazioni molto interessanti. Intanto ci suggerisce una modalità che è quella partecipativa, cioè l'insegnante che appunto affronta questa scolaresca così particolare si attrezza con un'empatia che è quella di coinvolgere i ragazzi anche proprio nell'immaginare un futuro per loro. Quindi certo insegna matematica, che non è una materia semplice, ma lo fa entrando anche proprio nella vita di questi ragazzi. Io credo che un po' lo stesso bisognerebbe fare in questo momento. Tu dicevi l'empatia, mai come nel periodo del lockdown ci si è resi conto di quanto siano necessari nuovi modelli per l'educazione, ma anche per la formazione, perché uno schermo da solo non basta. Lo schermo da solo non basta, ma non basta neanche una visione paternalista o maternalista, lasciami dire, nei confronti di ragazzi magari anche molto giovani. Io credo che tutti ormai abbiano davvero capito questa vicenda, quello che noi stiamo vivendo, e noi vediamo che i ragazzi anche molto giovani, se riesci a coinvolgerli, quindi a sfidarli anche chiedendo loro che cosa bisognerebbe fare secondo loro, quindi trovare nuove modalità, hanno delle reazioni straordinarie. Ecco, quindi essere su questo un po' meno protettivi e invece ingaggiare questi ragazzi, che io ne sono convinto sapranno loro indicarci anche delle nuove direzioni. Questo vale anche per la formazione aziendale, che ha una ricaduta poi nel mondo dei consumi, quindi del design di servizi e di prodotto? Sì, nella formazione aziendale davvero si sta ripensando tutto, no? Nel senso che i classici corsi, quelli che insegnavano la leadership, insegnavano la relazione e l'empatia, vanno rivisti proprio perché abbiamo vissuto tanti di questi valori. Quindi dovessi sintetizzare in un unico concetto è: ragioniamo in prima persona su queste cose anche nelle aziende e coinvolgiamo i nostri colleghi, che sono comunque anche padri, madri di famiglia e persone che hanno vissuto questa esperienza. Grazie a Francesco Morace. Essere Avere finisce qui, torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.